Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. Siete ingegneri o architetti? Magari con l'ambizione di realizzare progetti importanti? L'Italia a vista stretta, per i motivi che ben conosciamo, magari anche perché non c'è nessuno pronto a raccomandarvi? E proprio per questo state pensando di lasciarla? Allora non perdetevi questa puntata che vi porterà nel cuore di uno degli studi di architettura più importanti al mondo, quello di Santiago Calatrava a Valencia, dove, come abbiamo scoperto, lavora un giovane ingegnere civile italiano, il quale, dopo essere espatriato, ha scoperto, suo malgrado, che rientrare nel bel paese non è per niente facile. Incredibile, no? Il problema relativo al ritorno in Italia è un problema che è relativo al fatto che gli studi che si occupano di progetti di questo tipo sono veramente molto pochi. E quindi poi il risultato è che sei quello che loro dicono overqualified, cioè hanno paura di prendere una persona che poi chiaramente si annoia. La realtà all'estero è una realtà molto più variegata. Felice Allievi, 32 anni, è un ingegnere strutturista senior presso lo studio Calatrava di Valencia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Comincia oggi l'inchiesta di Giovani Talenti sui numeri della nuova immigrazione professionale italiana all'estero. In questa prima puntata intervistiamo Alvise Del Pra, ricercatore del Centro Altre Italie e autore di una ricerca sull'immigrazione in due città simbolo del nuovo millennio, Barcellona e Berlino. Nel caso di Barcellona, a partire dall'anno 2000 abbiamo avuto un incremento di oltre il 400%. Se si pensa che nel 2000 erano solo 4.855, oggigiorno sono quasi 40.000 gli italiani residenti. La cosa molto interessante è che nonostante la crisi economica che ha colpito in particolare la Spagna nel settore occupazionale, anche nel 2009 il trend di migrazione italiana verso città come Barcellona è continuato. Di fatto abbiamo quasi 4.000 presenze in più che si sono iscritte in quell'anno. Berlino è un altro caso molto curioso, di fatto a Berlino la crisi ha colpito meno, ma è dal 2001, diciamo, una città con una forte disoccupazione. Ciò nonostante continua a essere una meta di giovani italiani, neolaureati e non, artisti, eccetera, eccetera. Che idea vi siete fatti di questa emigrazione? È giovane? È qualificata? È sicuramente giovane, il 70% a Barcellona ha meno di 35 anni, per lo più si tratta anche di un'emigrazione qualificata. E ha suscitato una valanga di risposte online l'iniziativa della giornalista Claudia Cucchiarato, che sul sito repubblica.it ha lanciato un censimento degli espatriati italiani. La prossima settimana tracceremo proprio con Claudia Cucchiarato un primo bilancio di questo censimento. Intanto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nella sua visita in Francia, ha lanciato un appello agli studenti e ai ricercatori italiani che risiedono a Parigi. Arricchite le vostre esperienze all'estero e tornate in Italia più forti di prima, ha detto loro. All'agenzia di stampa ANSA questi giovani hanno affidato alcune riflessioni. Siamo costretti a lasciare l'Italia perché non ci sono fondi, non c'è lavoro. Così Stefania, 28 anni, Luigi, 35 anni. È frustrante sapere che le possibilità di rientrare in Italia sono pari a zero. Le professioni meno qualificate interessano circa la metà dei giovani italiani al primo impiego, lo denuncia un'indagine Istat dedicata all'ingresso dei giovani fino a 34 anni nel mercato del lavoro, ingresso i cui tempi non sono celeri. Solo il 29% di loro sperimenta la prima esperienza significativa di impiego entro un anno dalla fine degli studi. Dall'indagine emerge pure come oltre un terzo dei giovani con titolo secondario superiore avvii il proprio percorso svolgendo professioni poco o per nulla qualificate. Né mancano i fenomeni di sottoinquadramento e sottoutilizzo del capitale umano. Si chiama SI, Sindrome Italiana, la mostra che si apre oggi al Centro Nazionale d'Arte Contemporanea di Grenoble, in Francia, che ospita i lavori di ben 40 artisti italiani, tutti nati tra gli anni 70 e 80. Si tratta di giovani artisti che vivono e lavorano tra Londra, Parigi, Berlino e New York. Info su magazine-knack.org. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un direttore per il settore biotecnologia industriale dell'associazione Europa Bio coordinerà le attività dalla sede di Bruxelles, scadenza per i CV 22 ottobre, info su europabio.org. Un webmaster per l'EIPAL o European Institute of Public Administration di Maastricht in Olanda sarà responsabile del sito web, scadenza per i CV 25 ottobre, info su eipa.eu. E infine l'Europa cerca talenti scientifici per il Centro Comune di Ricerca della Commissione che ha sedi in Spagna, Paesi Bassi, Germania, Belgio e anche Italia. La call riguarda ben 270 ricercatori, scadenza per i CV 4 novembre, candidature a eu-careers.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta a Valencia. Entriamo allora, come già annunciato, in uno dei templi dell'architettura mondiale, dove troviamo un nostro giovane professionista espatriato. Nome. Felice. Cognome. Allievi. Età. 32 anni. Città di origine. Nettuno, un piccolo paese in provincia di Roma. Studi. Ho studiato ingegneria civile con indirizzo strutturale presso la Sapienza di Roma. Anno in cui hai lasciato l'Italia. Il 2005. Per andare dove? Londra. Perché? Volevo accrescere le mie esperienze umane e professionali. Quale lavoro svolgi attualmente? Adesso sono uno senior structural engineer presso lo studio di Santiago Calatrava di Valencia. Dove? A Valencia. Tornerai? Hai un'altra domanda? Penso e spero di sì. Quiero volver a empezar, volver a decirte qué tal como estás, volver a mirarnos de lejos nada más, volver a reírnos por nada. Quiero volver a empezar, volver a cruzarnos por casualidad. El Pacto, gruppo alicantino della Comunidad Valenciana, regione spagnola dove vive e risiede Felice Allievi, protagonista della storia di questa settimana. Volver a empezar non è un titolo a caso, quello che abbiamo scelto, il titolo della canzone che state ascoltando in italiano è Ricominciare. Felice, tu hai scritto a giovanitalenti@radio24.it: se decidessi di tornare in Italia, l'unica strada percorribile sarebbe aprire uno studio mio, perché le proposte che ho ricevuto non sono assolutamente all'altezza dei miei attuali livelli retributivi e della mia posizione professionale. Felice, è così difficile? E torniamo al titolo della canzone, ricominciare in Italia, soprattutto se si ha alle spalle un'esperienza all'estero? Non l'avrei creduto, però così pare. Praticamente purtroppo sembra che aver fatto delle esperienze importanti spaventi in qualche modo i datori di lavoro italiani, e quindi che sono preoccupati di non poterti schiavizzare a basso costo e quindi preferiscono profili più semplici. Parole forti, ci torneremo, ma cominciamo da te, dalla tua storia, dai tuoi studi. Tu hai frequentato l'Università La Sapienza di Roma, ti sei laureato nel 2005 in ingegneria civile e indirizzo strutturale. Ti sei laureato al termine, parole tue, di una corsa a ostacoli. Cosa funzionava e cosa invece non funzionava nell'Ateneo? Da una parte sicuramente il corpo docente era molto valido e molto esigente, tra l'altro, e quindi da quel punto di vista sicuramente l'università è stata molto positiva. Dall'altro, le carenze strutturali e organizzative e soprattutto la burocrazia stagnante dell'università sono stati molto molto difficili da superare e gestire. Fresco di laurea, ottieni il primo impiego a Roma. Come lo ottieni? Di cosa ti sei occupato? E soprattutto, tolici la curiosità, com'è stato l'impatto col mondo del lavoro? Caso sono stato abbastanza fortunato, perché attraverso un passaparola di amici di mio padre sono stato contattato da uno studio, la Pras di Roma, dove ho fatto un'esperienza corta ma molto interessante. Tu stesso l'hai detto, hai ottenuto questo primo impiego attraverso un passaparola, ma al di là di questi canali informali, quali sono le reali possibilità offerte dal mercato lavorativo italiano, nel tuo settore in particolare, però diciamo in modo trasparente e pubblico, no? Che è una cosa che poi ci arriveremo, in Inghilterra sicuramente hai sperimentato. Diciamo che nei primi 3 mesi subito dopo la laurea, attraverso soprattutto Alma Laurea e altri strumenti che l'università mette in gioco, ho ottenuto delle proposte, diciamo, ufficiali. Il fatto è che mediamente le proposte erano abbastanza inaccettabili da un punto di vista retributivo, ma soprattutto il tipo di esperienza che ti veniva proposto di fare e il tipo di responsabilità che ti venivano proposte. Più simile a un ruolo da impiegato che ha un ruolo da ingegnere. Metti in chiaro tu fin da subito col tuo datore di lavoro romano che la tua intenzione è quella in realtà di andare all'estero, e così dopo 3 mesi che definisci molto interessanti, tra l'altro in Italia, ti trasferisci a Londra. Nessun rimpianto per la scelta di lasciare il bel paese? Non è stato sicuramente facile, io avevo idee molto chiare, volevo andare all'estero per fare delle esperienze, per migliorare il mio inglese, per ritornare in Italia con qualcosa in più. Quindi subito ne avevo parlato con il mio datore di lavoro, e anche se è stato un periodo eccezionale da un punto di vista umano, perché ho avuto la fortuna di incontrare una persona che aveva fatto esperienze simili a me, comunque ho dovuto lasciarlo. Tu sei stato fortunato, non era nella media il tuo datore di lavoro italiano? Secondo me assolutamente no, a parte dal curriculum vitae, perché insomma aveva lavorato per lo studio Nervi per moltissimi anni, una persona che ha viaggiato praticamente tutto il mondo, aveva insegnato negli Stati Uniti, quindi una persona che anche quando gli ho comunicato la mia decisione di lasciare lo studio mi ha supportato, mi ha detto che stavo facendo la cosa giusta, che insomma in quel momento era importante, perché avevo molto, come puoi immaginare, avevo molti dubbi. Averne di persone così. Tra l'altro lui ti raccomanda a Londra, ma ti raccomanda all'anglosassone, no? Ci mette la faccia, non lo fa? Sì, no, per... la cosa è stata quasi simpatica, perché io in realtà appena era arrivato ero così sicuro di fare un'esperienza all'estero che lui aveva dato per assodato che io avessi già dei contatti. Quando l'ultimo giorno sono andato per salutarlo, mi ha chiesto di dargli i contatti per continuarci a sentire e io gli ho detto che ancora non sapevo dove sarei andato, al che si è quasi arrabbiato con me dicendo: ma come, non mi hai detto niente? Io ho moltissimi amici. La settimana dopo mi ha fatto tornare, aveva contattato per email un suo collega con cui ha lavorato nel Middle East e mi aveva fissato un incontro con quello che poi diventerà il mio successivo datore di lavoro, Mike Farnes. E tu, tra l'altro, a Londra, come ci racconti anche in una email a giovanitalenti@radio24.it, vieni assunto con un colloquio assolutamente informale. Ma qual è la maggiore differenza che hai notato a livello lavorativo e soprattutto nella valorizzazione delle giovani professionalità tra Italia e Gran Bretagna? Secondo me il confronto, almeno nel mio settore, fra Italia e Gran Bretagna è veramente impari. La differenza buona è sapersi. Abissale. L'ingegneria lì è molto ben pagata allo studio e lo studio investe tantissimo denaro per fare in modo che i propri dipendenti, i propri ingegneri, i propri architetti siano il più possibile intenzionati a rimanere e a lavorare al massimo delle loro capacità. Quindi tutto quanto è un ambiente estremamente, assolutamente informale, in cui ti senti al centro dell'attività dello studio, anche se sei un giovane ingegnere, sei un pezzo chiave del funzionamento dello studio, ricevi continuamente soddisfazioni sia economiche ma anche e soprattutto umane. Questo è importante, questo va sempre ricordato. Nel 2008 tu festeggi i tuoi 30 anni in un modo assolutamente inaspettato, perché opti per un cambio radicale e te ne vai, decidi di andare a Valencia, in Spagna. Perché? Mi ero accorto abbastanza chiaramente che l'ambiente lavorativo inglese per me era probabilmente eccezionale, quindi se fossi rimasto a Londra per più tempo non sarei più tornato in Italia, quindi la decisione, anche per motivi personali, per la mia ragazza, era di ritornare in Italia e quindi ho scelto di cominciare a guardare all'Italia e vedere le possibilità. Le possibilità che c'erano erano soprattutto in società di costruzioni che lavoravano per il Sud America e quindi la prima idea è stata quella di formarmi ulteriormente con un corso full immersion di 6 mesi di spagnolo a Valencia. Dove? Ero ecco, qui chiaramente. Comincia a inviare curricula quando arrivi in Spagna. Perché, come puoi immaginare, insomma, la vita è costosa se non si lavora. Ricevi però delle proposte proprio dallo studio Calatrava. Com'è stata la selezione in quello studio? Lì l'incontro è stato con il direttore dell'ufficio, molto molto informale, l'ingegner Mario Rando, una persona eccezionale che da anni è l'ingegnere che segue tutti i grandi progetti di Calatrava, eppure con grandissima umiltà era disposto a fare il colloquio in italiano con me, perché ancora non, il mio spagnolo non era a livello. Io poi ho preferito farlo in inglese per cercare una lingua di mezzo fra le due. Devo dire, è stato un colloquio molto interessante, si è parlato di me, si è parlato delle mie aspirazioni e le mie prospettive nello studio Calatrava. Da lì poi comincia anche il tuo lavoro e prosegue tuttora con lo studio Calatrava. In soli 2 anni praticamente ti occupi della progettazione strutturale di importanti progetti internazionali quali il World Trade Center Transportation Hub di New York, la stazione Alta Velocità di Lisbona, quella di Reggio Emilia e vari centri convegni in Spagna. Ma siamo sinceri, Felice, in Italia una responsabilizzazione di questo tipo su opere di questo tipo sarebbe stata possibile o quantomeno immaginabile alla tua età? 32 anni, ricordiamo. Credo assolutamente di no. Diciamo che è anche dovuto a come è strutturato lo studio presso cui lavoro. La grandissima responsabilità da subito a tutti quanti le persone che lavorano nell'ufficio. Felice, avere un curriculum internazionale non dovrebbe aprire tutte le porte in Italia? Cioè, l'impressione quando si parla del nostro paese è che andarsene per molti espatriati, giovani soprattutto, significhi in sostanza tagliare i ponti, uscire da quella rete relazionale che ti garantisce offerte di lavoro. Ma non dovrebbe essere il contrario? Come avviene all'estero? Spiegaci. Il problema relativo al ritorno in Italia è un problema che è relativo al fatto che gli studi che si occupano di progetti di questo tipo sono veramente molto pochi e quindi la maggior parte degli studi si occupa di progetti più standard, più semplici, in cui di solito il responsabile è il titolare dello studio che non vuole che i propri dipendenti vengano responsabilizzati più di tanto, vengano inseriti più di tanto perché ha paura che in qualche modo poi gli si rubino clienti. Sempre la paura. Sempre la paura. E quindi poi il risultato è che sei quello che loro dicono overqualified, cioè hanno paura di prendere una persona che poi chiaramente si annoia. La realtà all'estero è una realtà molto più variegata, esistono studi come quelli italiani, esistono studi medi, esistono studi di 10.000 ingegneri che praticamente monopolizzano a livello mondiale i grandi progetti. È vero che l'anno prossimo è in programma un salto a New York? probabile che per il 2011 mi sposti presso l'ufficio di New York, dove ancora non c'è ingegneria e quindi l'architetto Calatrava è interessato ad avere sul luogo, soprattutto per il progetto del World Trade Center, degli ingegneri. Che bel esempio di valorizzazione di un giovane talento. Felice, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? In un flash. A livello generale dobbiamo pensare meno come individui e più come società. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Felice Allievi, 32enne ingegnere civile, da 2 anni al lavoro nello studio Calatrava di Valencia. Felice vi è giunto dopo un percorso professionale iniziato in Italia, proseguito in Gran Bretagna e poi in Spagna. Ora si appresta a fare un ulteriore salto verso gli Stati Uniti. Il provincialismo, la lottizzazione e la scarsa considerazione per i giovani di talento lo tengono ancora lontano dall'Italia. Dove risiede invece un suo amico, Francesco Lipari, fondatore dello studio OFL Architecture di Roma, un laboratorio di ricerca architettonica interdisciplinare nato nel 2008. Con Francesco, Felice porta avanti progetti comuni. Buongiorno innanzitutto e buon pomeriggio a Francesco Lipari. Buongiorno. Francesco, c'è un po' l'eterno dilemma, no? In Italia, se vogliamo, si parla anche di un albo unico, la difficoltà di distinzione tra ingegneri e architetti. Ma si può collaborare, come nel vostro caso, tra giovani ingegneri e architetti per cominciare a cambiare radicalmente il modo di lavorare nel settore della progettazione e portare così anche l'Italia a guardare all'estero, a ragionare più in grande e a innovare per davvero? Sicuramente sì, assolutamente. Come succede all'estero, la collaborazione e la condivisione sono aspetti importantissimi che tutti noi qui in Italia dovremmo tenere a mente per poter fare vera innovazione. All'interno del nostro studio, ad esempio, l'interdisciplinarità e la fusione fra architettura e altre discipline ha generato i progetti migliori. Penso che alla luce delle nostre esperienze di lavoro, la linea di demarcazione che esiste fra architetti e ingegneri si sia molto assottigliata negli ultimi anni. Architettura e ingegneria non dovrebbero considerarsi due discipline divergenti, ma assolutamente complementari che, messe insieme, producono grande innovazione. Francesco, tu hai scelto di restare e lottare anche in Italia, a differenza di tanti architetti giovani che hanno preso la strada dell'estero. Tu stesso, tra l'altro, hai lavorato in Cina, quindi hai maturato importanti esperienze internazionali. Dopo 2 anni, tu pensi che la tua sia stata una scommessa vinta? Insomma, lo rifaresti? Beh, io ho trascorso a fasi alterne quasi 2 anni in Cina, tra Shanghai e Pechino, e nel febbraio 2009 ho deciso di ritornare in Italia, di fondare il mio attuale studio OFL Architecture. Finora assolutamente è stata una scommessa vinta, alla luce anche di alcuni piccoli ma importanti traguardi che abbiamo raggiunto recentemente con lo studio e con una rivista Free Press che abbiamo fondato. Il problema fondamentale è che non puoi mai abbassare la guardia, non puoi abbassare la guardia un attimo, perché se fai qualcosa di nuovo, allora devi insistere costantemente in quello che fai per riuscire giorno dopo giorno a convincere, a guadagnarti la fiducia. Ecco, arriviamo al punto, Francesco. L'Italia, secondo te, è un paese conservatore dal punto di vista della progettazione? Penso che l'Italia sia fondamentalmente un paese per vecchi, perché fin da piccolo ti insegnano a pensare da vecchio, a convivere solo col suo passato. Il cliché di associare l'Italia alle sue macerie, all'antichità, è un concetto fortemente consolidato che ci condiziona in tutto, a differenza di nazioni come la Cina, dove, non avendo a che fare con un passato così ingombrante, si riescono a produrre nuove icone, nuove architetture super tecnologiche innovative che probabilmente in futuro saranno i corrispettivi del Colosseo o del Pantheon qui a Roma. A Roma, ad esempio, non esiste alcun tipo di innovazione nelle architetture degli ultimi anni 50, a parte quelle realizzate dallo Star System. Questo perché? Perché fondamentalmente non c'è educazione alla contemporaneità, e i costruttori, per la maggior parte super conservatori, ci tengono in scacco realizzando palazzine ed edifici che di contemporaneo non hanno nulla loro invece spacciano per ultramoderni. E posso capire tutto ciò poi alla fine finisca col tarpare le ali ai giovani e alle loro idee innovative, sì, se vogliamo. Sì. Felice, è una domanda per Francesco? Mi piacerebbe che lui parlasse del rapporto sinergico che si deve creare fra ingegneria e architettura per ottenere un'architettura di qualità. La distinzione fra architettura e ingegneria era molto più assottigliata precedentemente, quindi adesso bisognerebbe ritornare a quella concezione, a poter concepire dei progetti come una fusione fra architettura e ingegneria, quindi una fusione fra la figura dell'architetto e quella dell'ingegnere, perché anche come succede all'estero, per esempio noi recentemente abbiamo collaborato con un gruppo tedesco, i Transolar, loro fanno un tipo di ingegneria votata al design, un'ingegneria importante, un'ingegneria che qui in Italia appunto non c'è, che quindi mischia l'architettura con l'ingegneria stessa. Francesco, ti preoccupa vedere tanti giovani architetti italiani che stanno andando letteralmente a popolare i paesi del centro-nord Europa, penso solo all'Olanda. Chiaro che con queste premesse un laureato non se la sente di sopportare un clima così esasperato e viene allettato giustamente da chi ha l'intelligenza di riconoscere le sue qualità. All'estero c'è una parola che basterebbe a far arrossire tutti quelli che ci riempiono di belle parole e che parlano di risalita economica, e questa parola è il rispetto per il lavoro altrui, semplicemente. Basterebbe solamente curare questo aspetto del lavoro per poter avere già dei risultati importanti, delle iniezioni di fiducia e far sì che questo produca modelli nuovi, modelli che non esistono in Italia, anche se questo significa importarli dall'estero. Grazie a Francesco Lipari, grazie per la sincerità delle tue parole. Un'ultima domanda per Felice Allievi, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Il mio consiglio è quello, prima cosa, di fare una scelta senza pensare al denaro, perché sì, è vero che andare all'estero significa anche accedere a dei salari più alti, ma il motivo che deve spingere una persona ad andare all'estero è la voglia di conoscere una cultura differente, perché allargare i propri orizzonti culturali significa in qualche modo, da una parte, accrescersi da un punto di vista umano e poi anche professionale, e poi perché la sfida che ti impone, perché comunque a volte è anche pesante, anche difficile confrontarsi con culture differenti da noi, questa sfida secondo me è una sfida che fa crescere, che fa diventare persone più coscienti, più consapevoli e che possono tornare nella nostra società portando qualcosa di nuovo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un centro che dal 2007 studia le migrazioni italiane. Ne abbiamo già accennato nel notiziario con l'intervista a uno dei suoi ricercatori. Si tratta del centro Altre Italie, la direttrice Maddalena Tirabassi. Il centro è nato 3 anni fa, però da una vecchia esperienza di lavoro attorno alla rivista Altre Italie, che è nata nel 1988 all'interno della Fondazione Giovanni Agnelli. Il centro si occupa della storia delle migrazioni a partire dall'epoca pre-unitaria fino ai giorni nostri e con particolare attenzione alle comunità italiane nel mondo. Come è cambiata l'emigrazione italiana? Da una decina di anni a questa parte abbiamo riscontrato un cambiamento molto forte nella composizione delle migrazioni italiane, che sono diventate sempre più qualificate fino ad arrivare appunto al recente fenomeno che è legato alle migrazioni o alle mobilità dei giovani, molto spesso laureati, provenienti in gran parte dalle aree del sud, in cui appunto i laureati non trovano occupazione, e da queste aree si spostano prima verso le regioni del nord. Solo se pensiamo nel decennio 97-2008, 700.000 persone si sono spostate dal sud al nord, spesso per proseguire verso i paesi europei. Dati sull'emigrazione verso i paesi europei però sono un po' più difficili da trovare, corretto? È molto difficile, perché dopo Schengen, con l'apertura delle frontiere, non si registrano più le uscite, quindi la ricerca di dati in questo settore è molto complessa. Noi abbiamo cercato di farla attraverso il confronto tra i dati AIRE, che è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e i dati delle regioni dei paesi di immigrazione. Nella sola Berlino, ad esempio, abbiamo più di 15.000 italiani, giovani italiani, che si sono recati nel paese. Il primo paese di residenza degli italiani che si spostano in questi ultimi anni è il Regno Unito, dove si è recato il 19,2% della mobilità dei giovani italiani. Le chiedo un'opinione da esperta. Confrontando le ere geologiche dell'emigrazione italiana, non è una perdita maggiore, più consistente, quella attuale, perché fatta appunto da persone qualificate, rispetto al passato? Non sarei così netta nella distinzione, perché dall'Italia sono partiti da sempre anche professionalità magari nel campo dell'edilizia, dell'arte, dell'artigianato, quindi la perdita per l'Italia se vogliamo leggerla in questa chiave, c'è sempre stata. Oggi l'investimento sull'istruzione che viene lasciato andare all'estero, se non si ha un ritorno, e purtroppo dai dati che abbiamo non risulta un ritorno, in questo senso si può vedere una perdita. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.altreitalie.it. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Oggi vi proponiamo due estratti di lettere giunte al blog ufficiale di Giovani Talenti, le potrete poi leggere in versione integrale direttamente sul nostro blog. Lorenzo ci scrive: ribalterei la visione tradizionale che si ha dell'emigrante. Questo è il paese degli stranieri. Qui i giovani senza agganci o eredità familiari sono degli emigranti a casa loro. Posso dirlo dopo aver visto l'Europa e gli Stati Uniti. Scappare all'estero per un giovane professionista vuol dire spesso e fin da subito uno stipendio dignitoso e una possibilità di carriera. Benedetto, dalla Spagna. Vorrei sfatare alcuni miti. Assolutamente non è facile emergere all'estero se si è italiani, perché ci portiamo dietro troppi cliché. Inoltre posso dire che anche gli altri paesi hanno i loro problemi. La differenza fondamentale, scrive Benedetto, è che fuori siamo considerati per quello che siamo, una risorsa. Una risorsa formata addirittura non a spese loro e pronta da sfruttare immediatamente. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Ritenete che l'Italia sia in grado di offrire posizioni e opportunità professionali importanti a chi rientra dall'estero dopo una significativa esperienza internazionale? Oppure preferisce tagliare i ponti con questi espatriati una volta esauriti i contatti con il tessuto delle relazioni in loco? Non è questa una clamorosa perdita di talenti? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.